Letture di Radio 24. In Italia veniva considerato un giocatore di calcio modesto con una carriera nelle categorie dilettantistiche. In Indonesia, invece, è un idolo della tifoseria del Semarang United. Raffaele Simone Quintieri, classe 82, racconta la sua storia a 11.000 chilometri da casa. Sì, lo ammetto, mi sento un emigrante. Un emigrante che finisce in Indonesia, a Semarang, una città di 3 milioni di abitanti, che vive di povertà e di pallone. Lui è Raffaele Simone Quintieri, per tutti Simo, nato a Terranova di Sibari, professione calciatore, anni 29. Sono andato via quando ne avevo 13 dal mio paese. Di posti ne ho girati, ma chi lo avrebbe mai detto che per raggiungere la felicità dovevo trasferirmi in un altro pianeta? Sì, qui non è solo un altro posto, è proprio un altro mondo. Quintieri è stato ingaggiato a gennaio dal Semarang United. Gioca nella Serie A indonesiana. Guadagna 15.000 euro al mese in un posto dove un operaio ne prende 80. Tra poco devo rinnovare per altri 2 o 3 anni. Da qui non vorrei muovermi. Vivo in un albergo a 5 stelle, con piscina e tutti i comfort. Giro con l'autista. Sono diventato un idolo per questa gente. Certe volte leggo che in Italia gli spettatori per una partita sono 6-7.000. Qui, quelle persone le vediamo tutti i giorni durante gli allenamenti. Allo stadio ne troviamo 40.000-50.000. Sono arrivato a Semarang e mi sono trovato in aeroporto centinaia di tifosi ad accogliermi con sciarpe e bandiere. Cantavano il mio nome. Quando giro per strada, per i centri commerciali, impiego mezz'ora a fare 200 metri. Chi ti chiede i soldi? Chi ti vuole sposare? O chi semplicemente vuole un autografo. Incredibile. Qui c'è gente che non ha i soldi per comprare il pane o addirittura le scarpe, ma ha sempre il sorriso sulle labbra. Una sorta di paradiso. Ringrazio Dio per avermelo regalato. E grazie al mio procuratore, Alessandro Magni, per avermi dato questa idea. La sua vita indonesiana è un po' come quella di Totti a Roma. Esatto, proprio qualcosa del genere. A questo punto è facile immaginare un traumatico rientro in Italia. Ride Quintieri, è un ragazzo sveglio. Sì, potrebbe esserlo. Infatti io non voglio tornare. Meglio stare qui. Tra poco mi compro anche casa. Vivere da Totti o Beckham per 3 anni fa bene al fisico e alla testa. Per me è un'esperienza calcistica e umana che non ha eguali. Ora voglio imparare la lingua. La Serie A italiana lo ha scartato troppo presto. Ma c'era chi credeva molto in me. Ovvero Gianluca Signorini. Se fosse ancora vivo lui, per me sarebbe diverso. Penso spesso a lui. Sono contento che persone con cui ho giocato hanno fatto strada, vedi Chiellini e Domizzi. Ma pazienza. Sono stato sfortunato, ma è anche vero che in Italia è difficile andare avanti per meriti. Certo, qualche errore l'ho commesso. Ero una testa matta. Non accettavo la panchina, creavo problemi. Alla lunga, a me stesso. Alla fine sono qui e per me è una rivincita. A Semarang l'80% della popolazione è di religione musulmana. La preghiera è qualcosa che coinvolge tutti quotidianamente. Si prega a fine allenamento, negli aeroporti quando si fa scalo. Ognuno prega il suo Dio. È obbligatorio farlo. La giornata tipo? Qui fa caldo. Tutto comincia presto, alle 6 di mattina. L'autista viene a prendermi e mi porta all'allenamento. Si lavora a ritmo di musica, sempre con molta allegria. Terminata la seduta, un giro in città e poi relax a casa. Piscina. Il mare qui è bello, non bellissimo come a Bali, che si trova a 2 ore di volo da Semarang. Qui sono molto particolari. Si fanno cose a metà tra il religioso e lo scaramantico, come bere dalla stessa bottiglia prima delle partite. Le docce non si fanno in comune, ma ognuno per conto proprio, magari a casa. Non ci sono ritiri. L'alimentazione è libera. Ognuno si gestisce per conto proprio. Si vive in allegria ogni momento della giornata. Se fai un gol in allenamento e non esulti, l'allenatore si arrabbia. La gente resta delusa. Ha scelto la maglia numero 37. Sarebbe 3 luglio, il giorno di nascita di mamma. Poi 3 più 7, 10, il mio numero preferito. Il calciatore sogna di indossare quella maglia, quella dei campioni, i geni del calcio. E rieccolo l'accostamento a Totti, un giocatore che stima. Non ho idoli particolari. In passato, per il tipo di carattere, mi piaceva Paolo Di Canio. E poi anche perché, come Quintieri, ha fatto gran parte delle sue fortune all'estero. Certo, un estero meno estero rispetto all'indonesiano Simone. La sua squadra è a 6 punti dalla zona Champions League. Lui ha totalizzato 11 presenze e 2 gol. Il calcio anche qui si gioca con il pallone e due porte. Non ha qualcosa di diverso. La Serie A italiana mi è mancata, ma l'ho trovata qui. Il calcio asiatico sta crescendo. A parte me, qui ci sono giocatori europei, anche sudamericani. A giugno tornerà in Italia. Un mese di vacanza, visto che da quelle parti comincia il Ramadan. Ne approfitto per incontrare la mia fidanzata, che vive in Germania, ma è russa, e per rivedere la mia famiglia. Poi, il rush finale del campionato, che finisce a novembre. Rivedrà mamma e papà, che all'inizio non hanno preso bene la scelta di vita del figlio. Li ho capiti, ma alla fine anche loro hanno accettato la mia scelta. Ci dividono tanti chilometri e 6 ore di fuso orario. Mi tengo legato al mondo italiano con Facebook, Skype, il computer, insomma. Ma prima o poi tornerò. Forse. A questo punto, chi glielo fa fare? Avete ascoltato la lettura dell'articolo Io, il Totti d'Indonesia, di Alessandro Angeloni, dal Messaggero di martedì 26 aprile. Chissà perché, ma quando in Italia si cerca di introdurre qualche metodo di valutazione oggettiva dell'istruzione, c'è sempre qualcuno che si oppone. Succede ora a Maria Stella Gelmini, ma ugual sorte toccò anni fa all'ex ministro dell'istruzione Luigi Berlinguer. Un insulto alla scuola pubblica, un'offesa della professionalità della scuola pubblica e addirittura la schedatura a vita degli studenti. Ma quale sarebbe questa catastrofe? Sarebbe la decisione presa dal ministro dell'istruzione Maria Stella Gelmini di estendere da quest'anno anche alle scuole superiori, si inizia dalle seconde classi, i test invalsi, test uguali per tutte le scuole che consentono un raffronto oggettivo sulla preparazione degli studenti, a prescindere dal metro di giudizio dei singoli insegnanti. Nulla di rivoluzionario, visto che già da alcuni anni furono introdotti dall'allora ministro Giuseppe Fioroni, i test si fanno nelle elementari e nelle medie italiane e che sistemi simili sono in funzione, senza polemiche, in molti paesi europei e negli Stati Uniti. Ma questo allargamento sta provocando le proteste dei COBAS e il boicottaggio più o meno palese di singoli professori e scuole, con motivazioni spesso pretestuose. In verità non c'è nulla di nuovo in queste proteste. Si tratta semplicemente dell'ultima battaglia di una lunga guerra contro chi vuole inserire nella scuola un sistema di valutazione oggettiva, un sistema che aiuti a migliorare la qualità dell'istruzione e magari in minima parte preveda dei vantaggi per chi merita di più. Una guerra che ha già fatto vittime in Viale Trastevere, come ad esempio Luigi Berlinguer, che nel 2000 propose il famoso concorsone, un test volontario per dare agli insegnanti di scuola un piccolo aumento. Una proposta che gli fece perdere la poltrona di ministro, con l'accusa di aver fatto perdere al centro-sinistra voti fra gli insegnanti. La stessa Gelmini lo scorso anno ha avviato con enormi difficoltà, quasi tutte le scuole coinvolte si sono dichiarate indisponibili, una sperimentazione per dare aumenti di merito agli insegnanti. Difficoltà che dimostrano sempre più come merito e scuola sono due parole destinate forse a non incontrarsi mai. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Andrea Balzanetti, Nessuno mi può giudicare, pubblicato dal Corriere della Sera del 21 aprile.